Dopo il pranzo di mezzogiorno, ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficiente insistenza nelle mie domande perché mi rispose. Da 3 anni abitava, sì, da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati 100.000. Di 100.000 ne erano spuntati 20.000. Di quei 20.000 contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quello che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai dell'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. 55, mi disse lui. Si chiamava Elzerard Bouffier. Aveva posseduto una fattoria in pianura, aveva vissuto la sua vita. Aveva perso un figlio unico e poi anche la moglie. Si era ritirato nella solitudine dove trovava piacere a vivere lentamente, con le pecore e con il cane. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per mancanza d'alberi. Aggiunse che, non avendo altre occupazioni più importanti, si era risolto a rimediare a quello stato di cose. Poiché conducevo anch'io, in quel momento, malgrado la giovane età, una vita solitaria, sapevo toccare con delicatezza l'anima dei solitari. Tuttavia, commisi un errore. La mia giovane età, appunto, mi portava a immaginare l'avvenire in funzione di me stesso e di una qual certa ricerca di felicità. Dissi che nel giro di 30 anni quelle 10.000 querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose con gran semplicità che se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di 30 anni ne avrebbe piantate tante altre che quelle 10.000 sarebbero state come una goccia nel mare. Stava già studiando, d'altra parte, la riproduzione dei faggi e aveva accanto alla casa un vivaio generato dalle faggine. I soggetti che aveva protetto dalle pecore con una barriera di rete metallica erano di grande bellezza. Pensava inoltre alle betulle per i terreni dove, mi diceva, una certa umidità dormiva a qualche metro dalla superficie del suolo. Ci separammo il giorno dopo. L'anno seguente ci fu la guerra del 14, che mi impegnò per 5 anni. Un soldato di fanteria non poteva pensare agli alberi. A dir la verità, la cosa non mi era nemmeno rimasta impressa. L'avevo considerata come un passatempo, una collezione di francobolli, oppure anche dimenticata. Finita la guerra, mi trovai con un'indennità di congedo minuscola, ma con il grande desiderio di respirare un poco d'aria pulita. Senza idee preconcette, quindi, tranne quella, ripresi la strada di quelle contrade deserte. Il paese non era cambiato, tuttavia, oltre il villaggio abbandonato, scorsi in lontananza una specie di nebbia grigia che ricopriva le cime come un tappeto. Dalla vigilia, m'ero rimesso a pensare a quel pastore che piantava gli alberi. 10.000 querce, mi dicevo, occupano davvero un grande spazio. Avevo visto morire troppa gente in 5 anni per non immaginarmi facilmente anche la morte di Elzerard Bouffier. Tanto più che quando si ha 20 anni si considerano le persone di 50 come dei vecchi a cui resta soltanto da morire. E invece non era morto. Era anzi in ottima forma. Aveva cambiato mestiere. Gli erano rimaste solo 4 pecore, ma in cambio possedeva un centinaio di alveari. Si era sbarazzato delle bestie che mettevano in pericolo i suoi alberi, perché, mi disse, e lo constatai, non si era per nulla curato della guerra. Aveva continuato imperturbabilmente a piantare alberi. Le querce del 1910 avevano adesso 10 anni ed erano più alte di me e di lui. Lo spettacolo era impressionante. Ero letteralmente ammutolito. E poiché lui non parlava, passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio per la sua foresta. Misurava in 3 tronconi 11 chilometri nella sua lunghezza massima. Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani dell'anima di quell'uomo, e dall'anima di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi, oltre alla distruzione. Lui aveva seguito la sua idea e i faggi che mi arrivavano alle spalle, sparsi a perdita d'occhio, ne erano la prova. Le querce erano fitte e avevano passato l'età in cui potevano essere alla mercé dei roditori. Quanto ai disegni della provvidenza stessa per distruggere l'opera creata, avrebbe dovuto oramai ricorrere ai cicloni. Buffier mi mostrò dei mirabili boschetti di betulle che datavano a 5 anni prima, cioè al 1915, l'epoca in cui io combattevo a Verdun. Le aveva piantate in tutti i terreni dove sospettava, a ragione, che ci fosse un'umidità quasi a fior di terra. Erano tenere come delle adolescenti e molto decise. Il processo aveva l'aria, d'altra parte, di funzionare a catena. Lui non se ne curava. Perseguiva ostinatamente il proprio compito, molto semplice. Ma ridiscendendo al villaggio, vidi scorrere dell'acqua in ruscelli che, a memoria d'uomo, erano sempre stati secchi. Era la più straordinaria forma di reazione che abbia mai avuto modo di vedere. Quei ruscelli avevano già portato dell'acqua in tempi molto antichi. Alcuni dei tristi villaggi di cui ho parlato all'inizio del mio racconto sorgevano su siti antichi di villaggi gallo-romani di cui restavano ancora vestigia, nelle quali gli archeologi avevano scavato, trovando armi in posti dove nel XX secolo si doveva far ricorso alle cisterne per avere un po' d'acqua. Anche il vento disperdeva certi semi. Con l'acqua erano riapparsi anche i salici, i giunchi, i prati, i giardini, i fiori e una certa ragione di vivere. Ma la trasformazione avveniva così lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore. I cacciatori che salivano in quelle solitudini, seguendo le lepri o i cinghiali, si erano accorti del rigoglio degli alberelli, ma l'avevano messo in conto alle malizie naturali della terra. Perciò nessuno disturbava l'opera di quell'uomo. Se l'avessero sospettato, l'avrebbero ostacolato. Era insospettabile, invece. Chi avrebbe potuto immaginare nei villaggi o nelle amministrazioni una tale ostinazione nella più magnifica generosità? A partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza andare a trovare il Gérard Buffier. Non l'ho mai visto cedere né dubitare. Eppure Dio solo sa di averlo messo alla prova. Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È facile immaginarsi, tuttavia, che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria di tanta passione sia stato necessario lottare contro lo sconforto. Buffier aveva piantato un anno più di 10.000 aceri. Quell'anno morirono tutti. L'anno dopo abbandonò gli aceri per riprendere i faggi che riuscirono ancora meglio delle querce. Per farsi un'idea più precisa di quell'eccezionale carattere, non bisogna dimenticare che operava in una solitudine totale, al punto che verso la fine della vita aveva perso del tutto l'abitudine a parlare, o forse non ne vedeva più la necessità. Nel 1933 ricevette la visita di una guardia forestale sbalordita. Il funzionario gli intimò l'ordine di non accendere fuochi all'aperto, per non mettere in pericolo la crescita di quella foresta naturale. Era la prima volta, gli spiegò quell'uomo ingenuo, che si vedeva una foresta spuntare da sola. A quell'epoca Bouffier andava a piantare faggi a 12 chilometri da casa. Per evitare il viaggio di andata e ritorno, poiché aveva ormai 75 anni, stava considerando la possibilità di costruirsi una casupola di pietra sul luogo stesso dove piantava. Ciò che fece l'anno seguente. Nel 1935 una vera e propria delegazione governativa venne a esaminare la foresta naturale. C'erano un pezzo grosso delle acque e foreste, un deputato e 10 tecnici. Fu deciso di fare qualcosa e fortunatamente non si fece nulla, tranne l'unica cosa utile, mettere la foresta sotto la tutela dello Stato e proibire che si venisse a farne carbone. Perché era impossibile non restare soggiogati dalla bellezza di quei giovani alberi in piena salute. Esercitò il proprio potere di seduzione persino sul deputato. Un capitano forestale mio amico faceva parte della delegazione. Gli spiegai il mistero. Un giorno della settimana seguente andammo insieme a cercare il Gérard Bouffier. Lo trovammo in pieno lavoro, a 20 chilometri da dove aveva avuto luogo l'ispezione. Quel capitano forestale non era mio amico, per nulla. Conosceva il valore delle cose, seppe restare in silenzio. Offrii le uova che avevo portato in regalo. Dividemmo il nostro spuntino in tre e restammo qualche ora nella muta contemplazione del paesaggio. La costa che avevamo percorso era coperta da alberi che andavano da 6 a 8 metri di altezza. Mi ricordavo l'aspetto di quelle terre nel 1913. Il deserto. Il lavoro calmo e regolare, l'aria viva d'altura, la frugalità e soprattutto la serenità dell'anima avevano conferito a quel vecchio una salute quasi solenne. Era un atleta di Dio. Mi domandavo quanti altri ettari avrebbe coperto d'alberi. Prima di partire, il mio amico azzardò soltanto qualche suggerimento a proposito di certe essenze alle quali il terreno sembrava adattarsi. Non insistette. Per la semplice ragione, mi spiegò poi, che quel signore ne sa più di me. Dopo un'ora di cammino, dopo che l'idea aveva progredito in lui, aggiunse: «Ne sa più di tutti». Ha trovato un bel modo d'essere felice lui. E grazie a quel capitano che non solo la foresta, ma anche la felicità di quell'uomo furono protette. Fece nominare 3 guardie forestali per quella protezione e le terrorizzò a tal punto che rimasero sempre insensibili alle mazzette offerte dai boscaioli. L'opera corse un grave rischio solo durante la guerra del 1939. Poiché le automobili andavano allora col gasogeno, non c'era mai abbastanza legna. Cominciarono a tagliare le querce del 1910, ma l'area era talmente lontana da tutte le reti stradali che l'impresa si rivelò fallimentare dal punto di vista finanziario. Fu così abbandonata. Il pastore non aveva visto nulla, era a 30 km di distanza e continuava pacificamente il proprio lavoro, ignorando la guerra del 39, come d'altronde aveva ignorato quella del 14. Ho visto Elzéra Buffier per l'ultima volta nel giugno del 1945. Aveva 87 anni. Avevo ripreso la strada del deserto, ma adesso, nonostante la rovina in cui la guerra aveva lasciato il paese, c'era una corriera che faceva servizio tra la valle della Durance e la montagna. Misi sul conto di quel mezzo di trasporto relativamente rapido il fatto che non riconoscessi più i luoghi delle mie prime passeggiate. Mi parve anche che l'itinerario mi facesse passare in posti nuovi. Ebbi bisogno del nome di un villaggio per concludere che invece mi trovavo proprio in quella zona un tempo in rovina e desolata. La corriera mi depositò a Vergon. Nel 1913 quella frazione di una dozzina di case contava 3 abitanti. Erano dei selvaggi, si odiavano, vivevano di caccia con le trappole. Più o meno erano nello stato fisico e morale degli uomini preistorici. Le ortiche divoravano attorno a loro le case abbandonate. La loro condizione era senza speranza. Non avevano altro da fare che attendere la morte, situazione che non dispone alla virtù. Ora invece tutto era cambiato, l'aria stessa. Invece delle bufere secche e brutali che mi avevano accolto un tempo, soffiava una brezza docile carica di odori, Un rumore simile a quello dell'acqua veniva dalla cima delle montagne. Era il vento nella foresta. Infine, cosa più sorprendente, udii il vero rumore dell'acqua scrosciante in una vasca. Vidi che avevano costruito una fontana. L'acqua vi era abbondante e ciò che soprattutto mi commosse, vidi che vicino a essa avevano piantato un tiglio di forse 4 anni, già rigoglioso, simbolo incontestabile di una resurrezione. In generale, Vergon portava i segni di un lavoro per la cui impresa era necessaria la speranza. La speranza, quindi, era tornata. Avevano sgomberato le rovine, abbattuto i muri, crollati e ricostruito 5 case. La frazione contava ormai 28 abitanti, tra cui 4 giovani famiglie. Le case nuove, intonacate di fresco, erano circondate da orti in cui crescevano, mescolati ma allineati, verdure e fiori, cavoli e rose, porri e bocche di leone, sedani e anemoni. Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare. Da lì proseguì a piedi. La guerra da cui eravamo appena usciti non aveva consentito il rifiorire completo della vita, ma Lazzaro era ormai uscito dalla tomba. Sulle pendici più basse della montagna vedevo i campicelli di orzo e segale in erba. In fondo alle strette vallate qualche prateria verdeggiava. Sono bastati gli 8 anni che ci separano da quell'epoca perché tutta la zona risplenda di salute e felicità. Dove nel 1913 avevo visto solo rovine, sorgono ora fattorie pulite, ben intonacate, che denotano una vita lieta e comoda. Le vecchie fonti, alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene, hanno ripreso a scorrere. Le acque sono state canalizzate. A lato di ogni fattoria, in mezzo a boschetti di aceri, le vasche delle fontane lasciano debordare l'acqua su tappeti di menta. I villaggi si sono ricostruiti poco a poco. Una popolazione venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, portando movimento, spirito d'avventura. Si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive nell'armonia, i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Elzerar Bouffier. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Ma se metto in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento, nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Elzerar Bouffier è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Banon.